posto. Assolutamente no, quindi devi vedere un po'. L'ho aperto, l'ho spolverato, l'ho pulito, ho pulito il connettore anche con l'acido e tutto, però sicuramente c'è qualche connettore che non va bene, poi l'antenna fa schifo, diciamoci la verità. L'antenna sicuramente c'è uscito, è piena d'acqua, non lo so, non stai andando come devi andare. I collegamenti comunque sono quelli, perché sono uguali a quelli che ho io, quindi lascia perdere questa radio, questo è un Kenwood, non è un baracchino, però questa è la KF che uso, però i collegamenti sono quelli, perché ho anche il Galaxy Saturn Echo, quindi i collegamenti sono quelli, sotto strumento, sotto amplificatore i collegamenti sono quelli, va benissimo. Lì devi vedere un po' nuovamente la situazione, Giuseppe, ok? Detto ciò, io vi lascio, però mi sposto perché sono già le 8:30, le 20:30 devo andare a preparare la cena. Ciao Giuseppe, piacere averti ascoltato, controllati bene tutto, salda nuovamente PL, taglia, fai, metti a posto, i collegamenti sono quelli, non li puoi cambiare, ok? Ci sentiamo in un'altra occasione, saluto anche Andrea, Natalino mi pare che è in ascolto, ci sentiamo alle prossime, mi ha fatto piacere avervi ascoltato, avanti Andrea. Ciao, buona serata anche a te, alle prossime, grazie, ciao ciao. Kappa, ciao a tutti, ci sentiamo alle prossimine, ciao ciao. Ciao Claudio, ciao Claudio, alle prossime, un abbraccio, buonanotte, ciao ciao. Bravo, quanto è cambiato anche a voi. Avanti Natalino, mi copi? Sì, che ti copi Andrei, ti copio, non c'è problema. Scappa, e Giuseppe Dattisti lo senti Natalino? No, basso, ma è colpa mia, ho l'antenna che spunta a 1 metro dal tetto, dai, non ne devi far conto, adesso quando piazzerò l'antenna nuova già sentirò a tutti. Papà, mi ricordi dove stai lavorando, Natali? Corso Trinità. Papà, io stanotte ho la magnetica appesa, testa in giù nel bastone della tenda, immaginati come sto lavorando io. Vabbè, siamo in condizioni precarie. Kappa, Sguscio, ci senti a te, sì? No, non ci sente Natali. Non mi sente. Non lo so, forse a te qualche possibilità ce l'hai. Magari a me mi sente, però sono io che sento che parla, ma non è decifrabile la modulazione, capito? Basso. Break. Secondo che sono in basso, un attimo. Break per un saluto. Avanti, ciao Gianfra, buonasera. Ciao Natali, per salutare a te, sentivo forse che c'è ancora Claudio. Buona serata a tutti e buona cena a chi va a cenare, anche a sto chiedendo, ciao. Ciao Gianfra, buona cena, buon tutto quando la farai, alle prossime. Ciao, ben sentito e buona cena. Grazie anche a voi. Prova. Ancora qualcuno? Avanti canale 10, c'è ancora qualcuno? La parola bianco anche per me, buona carica a tutti, alla prossima, ciao. Hola chicos. Ehi, salve, buonasera, chi sei Antonio? Kappa, buonasera. Aspetta, faccio una telefonata. Anche io stavo uscendo, Anto. Ehi, a Kappa. Ma doveva essere Luca, ma... Non lo so. Ci sentiamo più tardi alle prossime, va bene Anto? Ciao. Ciao, ciao. Claudio. Luca. Claudio. Oh, chi è? Sono Giuseppe, ora mi senti meglio? Kappa, no, sono Antonio, sono. Oh, Antonio, ciao, scusami, ben sentito. Kappa, chi sei? Giuseppe, Sguscio. Da dove? Itili. Ah, Itili sei. Kappa, saluto e ben sentito. Tisi, no, io sono a Sassari, sono. Kappa, come arrivo lì a Tisi? 9:20 Radio 5. Fora mari, 9:20 a Tisi. E a Tisi come ti arrivo io? Sei 9:10 qua. Bene, dai, che sto provando, sto rimettendo un po' il testo di impianto e vedere un po' come funziona. Kappa. Capo, ti sento bene, che antenna c'hai? No, c'ho una mini boomerang attaccata a un paletto. Già arrivi comunque. E adesso già cambiamo antenna, ci vediamo un po'. K, arrivi 9, mica è appena andato via, eh. K, sì, anche io sto andando in bianco che preparo la cena ai piccolini, giusto per fare un piccolo passaggio, vedere come mi sentiva. K, no, già va bene, già, arrivi bene da Tizi. Benissimo, dai ragazzi, io vado in QRX per il momento e ci sentiamo in un altro momento, più tardi di questi giorni, dai. Un abbraccio, grazie a tutti, ciao ciao. Ciao ciao. Sembra collegati al servizio di Io sono a casa. Andrea, ancora ci sei? Papà. Andrea, ci sei? No, di lei non è. E bello, ci sei? Marina, mi senti? Ehi, Alu, ti sento. Come mi senti, bene? Sì, benissimo. Comunque anche da lì ha migliorato il segnale, va bene. Vai, guarda che CNSI, vai. Ciao, buonanotte, un bacio. La mazza di Nevaria, fa un passaggio. Un po'. Hola. 9.40 Radio 5. E prima ero? Qualche punto in meno avevi. Ma guarda anche Marina da lì, prima mi arrivava 9 qualcosa, se sul più. C'è da quella stazione là. Arriva bene, esce bene da giù. Arrivi a me forse, immaginiamoci a te. E io come sono? Fondo a fondo. Adesso non c'ho gli occhiali, non vedo, aspetta. Aspetta un attimino perché mi ha chiamato cercando dal telefono, aspetta. Ehi, AKK, ci sentiamo dopo che sto mangiando. Ciao Carlo. Ciao. Luca, mi ascolti, sì? Luca, dimmi tutto, ti sento forte e chiaro. Ok, dai. No, ho rimesso a posto l'antenna, no? Devo sapere se è tutto ok. Caspita, qua a fondo scala. Ma è proprio cambiata di nuovo oppure sistemata? No, sistemata. È un'antenna, alla fine aveva 12-15 anni, ma... è stata rimessa a posto, tutta smontata, pulita, perché era tutta ossidata, era praticamente in corto, diciamo così, c'è il polo caldo, quindi sai, non esisteva più, era tutta piena d'ossido, e niente, da. L'ho ripiazzata sabato mattina. Sì, ho capito, hai il microfono con la preamplificazione al massimo, Luca? No, negativo, è a 5, beh, perché è alta. Perché sento tutto sotto, ma sento proprio tutto, la televisione e tutti i rumori di fondo. Guarda, adesso non ho il televisore acceso, guarda un po', a parte quella di mia madre, vabbè, guarda un po'. Sento lontano adesso, quello si sente lo stesso acceso, però adesso già va meglio, prima era troppo forse. Cappala, comunque è a posto, mi ascolti bene. So perfettissimo, forse perché siamo anche vicini in linea d'aria, capito? E quindi, però come l'hai regolato adesso è a posto. Invece io l'ho provato su questa radio e niente, no, non va. Cioè il microfono funziona come microfono normale, quindi i collegamenti li ho fatti giusti, ma la radio non supporta il microfono preamplificato e c'è da toccare qualcosina dentro. Ho capito. Ma cosa lo vuole messo l'amplificatore? Ora, no, l'ho provato qua qualche giorno fa e già va. In macchina non ho avuto tempo in questi giorni perché ero impegnato, avevo un corso, poi c'era mia suocera che non stava bene, la stavamo sistemando in una struttura perché a casa da sola non ce la faceva più praticamente a stare in piedi, aveva necessità di assistenza 24 su 24 e pagarti la gente a casa ti costa più di pagare una retta in una struttura, capito? Quindi eravamo avanti e indietro. dietro con mia moglie in questi giorni, quindi ho avuto pochissimo tempo, nonostante fossero belle giornate, magari avrei potuto fare anche il lavoro di passarmi i cavi direttamente collegandoli con la batteria, ma lo farò in questi giorni, adesso che ho qualche attimo in più. Vabbè. Niente, anche adesso vediamo un po', devo tenere ancora l'antenna perché c'ho stazionario. Noi qua no, qua è a posto, però nei canali alti la voglio regolare bene. E così anch'io mi sa che me lo compro 747, ce l'ho già, però vediamo, va. Se trovo bene l'antenna. E sperando anche di non disturbare. Vediamo un po', Bombolino ci sei. Ho acceso adesso, ma non ho sentito nessuno, Luca, a parte te, avevo acceso da qualche minuto prima e non ho sentito nessuno, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Un attimo, Se voglio bene alla Deus, grazie per questa cosa, qualche ospitalità, te prego, Come sto uscendo? Natalie. A me è bene, a fondo scala. Là, stavo provando uno spezzone che mi si era rovinato l'altro. Va bene Natalia, va bene, stai uscendo bene. Cava cava. Dammi, io facendo un po' di ora perché devo andare a ritirare mia figlia alle 9:30 e quindi sto aspettando, non ho acceso neanche televisione perché poi quando devi uscire ti tocca insomma interrompere, allora più tardi magari me ne sto un po' alla televisione, quindi una mezz'oretta me ne sto in radio così se c'è qualcuno a fare quattro chiacchiere. Natalie, beh, l'antenna, non hai gana ancora di metterti la nuova? È il fatto che mi hanno detto che farà brutto tempo in questi giorni e sto aspettando. Adesso devo andare anche dalla dottoressa. Sono un po' impegnato in questo periodo. Vediamo un po' se riusciamo a metterla in mezzo questa cosa. Capito, no, e se c'è da fare. La mia è sempre là sul tetto e ero un po' così, un pochettino preoccupato, ho detto quei giorni del vento forte, no, l'ho vista un po' oscillare, ma giusto la parte alta solo, però già è sempre là tranquilla, capito, già è stabile, sinché dura così, no, non la tocco più, spero di non salirci più nel tetto. Vai, che quella chissà quanto ti dura quell'antenna, vai tranquilla, non c'è vento che tenga lì. Insomma qua è molto aperta come zona, capito, è alta pure e quindi quando tira maestrale quei venti dal nord eccetera sono micidiali, quelli lì che fanno anche un sacco di danni. Ehi, già lo so, ma quella già è robusta l'antenna. Infatti, vediamo, speriamo bene. E niente, adesso questi giorni se ne ho voglia mi collego il 747 alla macchina, capito? Però mi faccio il collegamento diretto alla batteria, capito? Così sento anche meno scariche elettriche sulla radio, eccetera. Perché adesso ce l'ho la radio collegata con l'accendisigari, ma come azioni il 3G cristallo senti tutto là in radio, capito? Ho capito. Bisognerebbe fare un cavo grosso che entri dentro la macchina e colleghi tutta la batteria direttamente. Io mi avevo fatto un attacco, c'avevo un fusibile enorme perché c'avevo l'857 attaccato nella macchina e quello pompava senza né lineare né niente. C'avevo l'unità centrale nel cofano e il frontalino davanti solo, ma quello era bellissimo, le mani mi dovevo tagliare, me l'ho venduto. Quella è un'ottima cosa perché tutto il corpo radio lo puoi mettere da un'altra parte, capito? Il frontalino piccolo. Sì, ho capito quale stai dicendo, sì, bella radio quella, bellissima, proprio perché potrebbe potevi fare quei giochini lì. No, qua diciamo per casa già vado bene così come sono, tanto per il traffico locale, così qualche DX, già vado bene così come sono con i watt della radio, l'antenna che ho, l'impianto. Quello che mi interessa è diciamo uscire un pochettino più forte con la macchina, capito? Perché con i pochi watt l'antenna adesso la cambio, ne ho procurato una da 1,5 metri ed è la Midland S9 Plus, che ha una frequenza che va da 25 sino a 30, capito? Qualcosa del genere, quindi è anche la banda abbastanza larga, capito? Ed è 1,5 metri, quindi la posso mettere sia sulla base magnetica che eventualmente se metto la basetta fissa, se mi decido a togliere l'antenna della radio della macchina e ci metto una basetta fissa, là poi la radio già riceve lo stesso, capito? Tutti questi lavori ovviamente tempo buono permettendo, altrimenti quando inizierà la primavera. E infatti io me l'avevo fatto già da c'è rimasto sempre l'attacco nella macchina, infatti adesso vediamo se riesco a aggiustarmi questo baracchino piccolino per la macchina. E la base magnetica già ce l'ho, la devo solo raschiare sotto, che non riesco a togliere la vernice da sotto a questa base magnetica per fare bene contatto. Sì, ho capito. Niente, io il cavo per diciamo il collegamento alla batteria già l'ho trovato, ce l'ho già, capito? C'è un rosso e nero da 1,5 e dovrebbe andare bene e sicuramente riesco a passarlo anche senza troppe difficoltà, perché ho visto dove passano i cavi e c'è spazio per passare quei due cavetti lì, capito? Quei due fili praticamente, e poi me li passo sotto il tappettino dalla parte diciamo sotto i pedali, quella zona là, e l'attacco me lo faccio volante magari lì sotto dove infilerò il 747, capito? Ma mettilo grosso il cavo, mi da 1,5 mi sembra sia troppo fine. Ma per i 12 volt penso che sia più che sufficiente, capito? Non è che ha tutto questo assorbimento, magari tirerà 10 ampere massimo quella roba lì. Perché c'è il baracchino e il lineare c'è assorbimento, ecco perché ti volevo dire di metterlo un po' più grosso il cavo. Già ne ho anche più grosso, ce l'ho anche da 2,5, però mi sembra troppo grosso forse, boh. No, in modo che non scaldi, mettilo grosso il cavo che è meglio. Allora mi devo prendere un rosso da 2,5, perché di nero ne ho, ecco, capito, tanto ci metto quello, cioè va bene, rame, a voglia, ci metto i collegamenti alla batteria, glieli faccio in rame, col tubo di rame, glielo schiaccio bene, poi glielo buco col trapano e lo avvitto proprio ai bulloncini che ci sono dei cavi della batteria. E i due capi corda metti, cosa stai lì a... E glieli faccio io, capito, col rame, ne ho da buttare qua tubicini di rame, eccetera. Glieli stringo tipo capicorda, track messo e così a posto. Infatti. Però mettici un fusibile prima, dopo la batteria, no, metti un fusibile nel rosso. Fusibile almeno da 6-8 ampere penso. E 10 già va bene, perché c'è il lineare e il baracchino. Mettili un fusibile e così è protetto anche lì. Ce ne ho di fusibili, di quelli diciamo col di quelli di vetro praticamente, che c'è il vetrino, no? E ne ho da 5, da 6, da 8, da 10, ne ho diversi di quelli, tutti in una scatolina, quindi ce lo metto da 10 allora. Capo, così fai un lavoro fatto bene, e anche se metti una radio più grossa dovrebbe andare bene. Sì, quella che ho già è piccolina, però con 747 magari collegati tutti e due meglio metterci un 10 ampere, capito, di fusibile. Penso di riuscire a farlo anche in poco tempo, e il giorno che mi salta il ghiribizzo, che scendo giù in cortile, apro il garage e mi faccio tutto in un lampo, penso. E infatti. Una volta che hai passato i cavi, poi sistemare il resto già è molto più semplice, capito? Perché non devi stare col cofano aperto, eccetera, tirando, ritirando. Già c'ho anche, come si chiama, la sondina, quella sottile che passa dappertutto, lì ci attacco il filo col nastro isolante, capito? Ben stretto, poi tiro e me lo porto dove voglio io. E poi ci metti, per fargli i collegamenti, ci metti i cappuccetti, non ne usare il nastro isolante, no? Se non ce li hai, te li do io. Oh no, già ce l'ho, il nastro isolante per tirarmi il filo, capito? Lo attacco alla sondina e poi lo stacco. Poi sì, poi mi faccio tutto con i cappucci isolati, già c'ho anche la pinzetta per stringermi tutto. Anch'io c'ho un kit per fare quei lavoretti ordinati, capito? Infatti lo fai bello ordinato e sei un signore. Che altro, così almeno in macchina, secondo dove vai, almeno riesci a farti sentire un po' di più, dai, perché se spingi e hai un'antenna più valida, capito, già va meglio così, perché se sto a Sassari con l'antenna che ho va bene, mi sentono più o meno tutti, ma come esci, che trovi collinette, eccetera, hai finito se non hai qualche vitamina sotto, capito? Ma ti dirò, io non ne usavo e mi sentivano tutti. Vabbè, forse era l'antenna buona, la PLC 800, capito? Ce l'ho ancora qua la PLC 800. Adesso una base magnetica, devo smontarla dalla base magnetica perché non fa bene contatto, deve essere. Che tipo di antenna è questa che mi hai detto, Natale? È una Sigma, c'ha lo stilo in acciaio, tutto in acciaio, è bellina come antenna. Come si chiama? Sigma? Sigma PLC 800. Ebbe gente mala. Ciao tu. Kappa, mi sentite? Ci mancherebbe, se ti ho risposto vuol dire che ti sento. Kappa, Carlo, mi senti? Sì, forte e chiaro, chi sei? Antonio sono. Antonio, mi sembravi un'altra persona con la voce bella chiara. Kappa, quanto sono di segnale lì sopra? C'ho un'antenna piccola. Ma l'ascolto pure io, ma lo sento, mi senti Antonio? Ma la radio è buona, la radio è 5. Già va bene, da. Va bene, va bene. E come mai l'antenna piccola, Anto? Che quella l'ho messa per usarla. Sempre esterna ce l'hai? Sul tetto. Ecco, per quello, infatti non ti stavo riconoscendo perché qua mi arrivavi sempre a bomba con l'altra. Buonasera. Ah, veramente? E vado a vedere ora. Sembra più genio quello. Buonasera ragazzi, allora. Ciao Eugenio, Ciao Luca, amico mio di Sassari. Amico mio di Porto Torres. Dimmi un po', tu arrivi meglio adesso, non so cosa hai fatto, Mi ascolti meglio, ho sistemato l'antenna o sempre uguale? No, arrivi più forte lui. Ha migliorato tu, io non ho toccato niente, ha migliorato tu. Anche tu, da 5 a 7 vai, Non ci posso credere, lo sento con l'antenna piccola. Lui, buonasera, anche chi è quello piccolino, no, non riesco a... Cristiano, buon momento. Buonasera a tutti. No, lui, hai migliorato tu. Anche come segnale di brutto, Arrivi anche a me, arrivi a 7. Capito? Oggi io ero con l'antenna piccola. Sì, però ho QRM, prima era sempre a 0. 0 a 0, infatti non ho mai QRM, adesso ce l'ho, vuol dire l'antenna sta ricevendo meglio. È normale, no, l'ha messa più alta, è normale. Comunque sono contento, ci sentiamo meglio. No, l'ho sistemata, l'ha rotta, non andava più oggi. Sistemata proprio. E sollevata, prima era, fammi pensare, 2-3 metri e mezzo circa, adesso è quasi 4 metri. Bello amico mio del Porto Torres. Ciao a tu. Oh, 960 state arrivando qua, tu e Luca. Sono un po' distrutto. Ci sentiamo dopo, come finisco il scenario, Ok, a dopo se ci siete ancora. Ciao, abbracci e buon salvo a tutti, ciao. Ciao Eugenio. Ciao Gigi, dove sentiamo? Ciao amico mio Porto Torres, buona cena, Gap. Grazie, ciao amico mio Carlo. Ciao, ciao, alle prossime. Oh, ma 960 Natali. Ehi, anche Luca 960 qua. Luca è una bomba adesso, anche io prima l'ho sentito benissimo. Va bene che già siamo vicini, infatti gli ho detto, ma cosa stai usando? Dice, no, ho pulito l'antenna, eccetera. Ha fatto un bel lavoro evidentemente. Vabbè, no, io ho pulito solo quello verticale. Chi ha fatto proprio il grosso è un amico. Proprio internamente dove c'è tutto l'avvolgimento lì era tutta pessima. No, va veramente bene. Poi queste antenne non se ne trovano, è quello, no, se ne trovano, perciò bisogna tenersela conto. Vabbè, purtroppo le tempie se la mangiano, col tempo non è che campano a vita, però finché va questa penso che altre una quindicina, ventina d'anni, per come è sistemata penso che duri, Speriamo che ti duri il più possibile, come si augurano tutti, capite? Ma Antonio deve aver cambiato antenna, vero Antonio? Capa. Adesso sei Antonio che conosco, prima eri più basso, eri Santiago Otto. Adesso se domani non piove me vado a Sparagi. Beh, a me non me ne dai. No, tutti gli fumi, a te non te ne do, no? Che monello questo Luca, ma te lo puoi immaginare, non mi vuol dare, ha detto che me li fumo Carlo, te lo compri? Ma tu le fai essiccare poi te li fumi, no, te ne do. Io già ne conosco bei posti di asparagi, però è presto ancora nelle zone di, diciamo, del costone di Santa Lucia, comune di Bonorva, lì c'è un pezzo di terreno di una decina di ettari dove vai e li fai a bustoni, capito? Però ancora è presto, tra un mesetto penso in quella zona, forse invece zona di qua, Alghero, eccetera, fa un po' più caldo e può darsi che ci siano già gli asparagi. Sì, sono già, li stanno già facendo. Ma là ho visto l'altra mattina, sono passato alle 8:15 a Campo Giavesu e c'erano meno 4 gradi, tu dovevi vedere i campi tutti pieni di brina. E infatti qua a Sassari vedo alberi già in fiore, tipo la mimosa o quelli con i fiori bianchi, non so se sono mandorli, eccetera. Invece in quella zona lì non c'è niente di fiorito ancora. Sì, confermo, mandorle. Già li ho visti, ne ho visto diversi, capito? Anche viaggiando ad Alghero, andando a lavoro lo stesso, vedi anche i campi così che si stanno iniziando a colorare con quei, diciamo, fiori gialli del campo, no? Invece nelle altre zone dove fa più freddo, maledizione, solo erba, capito? Fiori ancora niente, neanche nei cespugli, cose così, lì penso ancora ci voglia almeno una ventina di giorni, dai, prima di vedere i germogli e gli asparagi. E comunque già stanno uscendo. Io due piccoli assaggini li ho fatti, due piccoli assaggini, sono molto dolci, buoni. Solo che vabbè, ma siamo andati noi con un amico, purtroppo non ce ne sono già passati lì. Magari a trovarne un bel, magari. E non so i posti, se no guarda, mi sarei. E tipo domani ho la macchina io, perché la mia ragazza va col mezzo al lavoro, perché oggi, perché domani esce prima. Adesso vediamo, mi organizzo, se non piove vado da qualche parte. Ho capito, già è bello a fare asparagi, dai, perché prendi anche aria e giri, insomma, già a me già piace. Io spesso andavo anche a fare i funghi, Antunna, quelle cose lì, conosco anche qualche zona dove ce ne esce, anche di quella di Ferula, che soprattutto nel periodo di primavera. No, funghino, avanti Natali. E adesso Gianluca Marina gli vuoi fregare la macchina per andare a tenere asparagi solo perché non me ne dai, perché dici che me li fumo. Non te ne do, no, ti che non ti ho visto con l'asparago che piatto nel braccio l'altra notte, l'altra sera sotto al ponte, non ti ho visto. Eri con Kurt, anche Kurt era tutto sballato come te. Tutto sconvolto era. Allora, c'è anche stata una moneta da sotto, se voleva 5 centesimi. Lo senti? Senti che è sballato, lo senti? E qua mano questo cane, è vero? Vieni qui, vieni da babbo. sentito lei cosa ti sta dicendo, Luca, amico, il monello. Dea dorme, l'ho coperta, sta dormendo. Chiama Luca tu. Mi sentito lei. Pensa che Dea, la mia copertina di quando ero bambino, piccolo piccolo, vabbè, bambino, non so, forse mesi. Avevo mesi, tu pensavo la copertina c'aveva 47 anni, buoni buoni. E l'ho messa lì, anzi a luna, la luna ha iniziato, però non l'ho buttata. 47 anni con la copertina c'è. Vero, cosa ti sto dicendo, quel nome di Luca? O qua ma è Luca? Diglielo tu che è qua. Vero. Mi sentite? Sì, a voi. Ma come arrivo? Ti arrivi bene. No. Carlo? Sì, Antu. Com'è? Lo scala adesso, Antonio. Arrivi fortissimo adesso di segnale. Caffaello con l'antenna piccola. Mai aggiunto cosa? Con 7400. Sì, perché prima eri 8, adesso sei fondo scala. Caffa. Va bene anche la piccola allora, se l'aiuti così già va bene. No, adesso sei 9.30, prima eri 9.60, come si spiega? Sta lì, quello è il cane che ti sta dicendo, portami in giro, mi sa. No, vuole andare a coricarmi, così lui si mette vicino a me, capito là? È quello mio, lo vedi? Vero? Già, no, la banda. Ma sei proprio sicuro, Natale? Come? Sei proprio sicuro? E di cosa? Adesso com'è il segnale? Adesso è tornato come era prima. Mi sa che ti sei cambiato di frequenza. Mica sei in FM. Oh ragazzi, io devo uscire perché sono le 9.25. Se ci siete ancora dopo, se no buonasera a tutti. Piacere della chiacchierata. Ciao Luca, Natalino, Antonio e tutti gli altri che sono in ascolto. Però purtroppo devo uscire adesso. E io, ciao, sentiamo Carlo. Ciao Carlo, alla prossima, saluti. Ciao Carlo, alla prossima, dai. Ciao, alle prossime. Ciao. Beh signori, è venuta l'ora dei pavesini, adesso vado a vedermi un po' di TV. Ci sentiamo alle prossime, dai, salutoni a tutti. Ciao Natali. Positiva Cavarrotti, frate, che è la vita mia? Luca! Gabba, bene mi senti? Ma dove eri prima? Che canale eri? Un altro canale che stavo provando perché non capivo cosa è. Sentivo il beep. Pensa a du. Chiepe. Vediva che guarda, che sei tu ricchia, questo Luca del coso, del... Striscia la notizia. Ma che brigida sta a fare, boh? Sono io. Chiepe. Quando ha assorbimento. Cappa. Ora, adesso faccio un passaggio con quella piccola e vedi se esco. Vai. Ma devo cambiare il PL. Lu, che differenza c'è? Prova. 1, 2, 3, prova. Sì, 6, 9, 10. E così staccato quant'è? Cosa? Staccato com'è? Santiago, sei da picchi di 8. E così 9.10? Sì. Che assignigosa. Vabbè, rimetto l'altra che è meglio. Guarda quanta differenza che c'è, l'ammazzalo. Guarda che antenna è. Questa l'ha rinto, l'altra è la storma. La storma si è venuta in tua. Cappa. Che pega. Provo a cercare, dovrei avere uno spezzone di filo. Perché mi devo fare dei PL. Come me lo cerco, 58. Gappa. E andavo. Ah, questa è seria, dai. Questa va bene, l'antenna. Sì, ha voglia. Ha voglia. Di lusso. L'arringo. Mi dà un antennino, un roccio di cobolo, boh. Si conferma. Gappa. Non è un antenino così, piazzato così, giusto va a andarmi. È un po' strana la cosa, ragazzi. Mi sento più basso con quella là. Beh. Non è che ne farà danno. Controlla. E la mamma è buona a controllare, che c'è via in culo. E mi muove, andiamo. Ma la ventola si alza quando ero con potenza. E beh. Gappa. Canto mio padre, questo qua. Aspetta che vado un attimo da Sara che mi sta dicendo roba. Che fai? Luca!